poi su queste bande, ma è cosa? Bande, ma perlomeno io la penso in questo modo, poi ognuno vedrà lì come pensarla, capito? Tutto lì, Tony. Ma così mi ha fatto nulla, capito? Cade su, su chi bacco fino a poter, forse ancora fino a poter riuscire, non credo, come ti dico, quindi che non me ne faccio nulla, se mi pensavo magari che hai superato a me, come ti ha votato, è finta sì, tanto che arriva fino a sapere di lui ancora, però come ti è finta, per forse non hai corso da proprio tempo, perché non mi interessa da. Ma tu ti immagini il cobra che è bello là come apparecchio, non si ha dire niente, è solo che c'ha meno bande di quell'altro, Tony, capito? È inutile che tu metti la potenza, ma cosa te ne fai la potenza? Non ne fai niente, cazzo, per la banda cittadina basta quei fatti suoi e basta, capito? È inutile, non vale la pena. La potenza la usi chi la deve usare, io non le uso e sono tranquillo, gli altri come mi piacciono io faccio, capito? Non mi interessa degli altri, ognuno fa il suo piacere. Però l'altro invece ha più bande e meno vantaggio, meno vatti, meno potenze, per cui quelle bande, tanto quelle bande, no, e cosa ci fai? Non ci fai niente, assolutamente. Non vale anche la pena, pensandoci bene, nemmeno questo va benissimo, perché tu con quel tanto vai e compri un apparecchio professionale, almeno c'hai tutte le bande, sei tranquillo, capito? Ascolti dappertutto e c'hanno tutti i filtri che vuoi, capito? C'hanno l'accordatore incorporato, è tutto un altro discorso, ecco, anche se paghi 100-200 euro in più, però almeno c'è un'apparecchiatura, capito? Però per questo qua, a quel prezzo non vale la pena, su per giù è così, perché io ho visto anche quell'altro grande che ti ho fatto vedere, e sulle mi sembra che ho 5 o 7,75 mi sembra. Ma scherzando sai. Per carità, non vale la pena, vai, non vale la pena. Già ne sta uscendo roba bella, ma costano. Per cui non ce la possiamo permettere, dai. Senza problema, non lo fa più nulla, quindi che non hanno per i cui come te, allora. Tanto, vuoi trovare là, non mi interessa nulla. Infatti, no. Rimaniamo così, aspetta, mi sembra che è entrato Mario, tu sì. Su 5 siamo Mario, siamo su 5, perché a me mi senti male, così è. Piano piano, ci avevo girata la manopola, ci avevo. Buongiorno Tony, parola santa quella che ha detto Gio Maria. Buongiorno Mario, buona domenica. È cambiata a te e a tutto il Correa, fa sempre piacere Tony a sentirci. Anche che questa volta stiamo diventando un poco cialtroni. Cialtroni tanto per dire Mario. È meglio così, interessante a sentirci, dopo del resto no, non ci sono problemi, o una maniera o dell'altra già ci sentiamo. Avanti Gianmari. Mario, non ti sento con questo, con questo non ti sento io, aspetta che c'è un altro. Così che ti stavo dicendo, Tony, come mai questa assenza? Come mai questa? Questa assenza! No, è una cosa che stavo guardando su internet e ho visto l'ultima novità di apparecchiature. Sono belli, però non mi interessano perché quello per quanto interessa quello lì ce l'ho anche io, capito? Anche come potenza non è che mi interessa tanto, perché lo sai bene che ce l'ho anche io, anche di più, quindi che non mi interessa, perché come apparato è bello, è bellissimo, un bella caena. Vabbè Tony, naturalmente tu tutto sta diventando moderno. Ah, bella fare, ma non fare la candela. Ormai quelli va bene per le persone che entrano visti da poco tempo, capito, che sono in frequenza, ma noi che siamo tanti anni, ci basta questi che abbiamo, tranquilli e pacifici, sino alla morte. Infatti non mi interessa, me l'hanno, ve l'ho guardato, l'ho scaricato e l'ho mandato a Gio Maria a vederlo, però no, a me non mi interessa perché no, c'ha le stesse infezioni che c'ha questo qua, quindi che no, se, magari gli aveva avuto qualche cosa in più, però non c'ha niente di più di cosa, perché quello che c'ha lui, quello che c'aveva quell'apparato ce l'ho io, anzi come potenza forse anche di più, capito, quindi che non mi interessa. A me, io sono rimasto contento di quella questione là, e così che quello lì va molto bene, tranquillo, avanti Gio Maria. È venuta gente, devo uscire, già profitto Romano, ben sentito, e buona domenica a tutti e due, dai. Ci sentiamo, dai, dopo lo vedo un po' e vediamo come la stazione, per vederlo, non per altro. Già ci sentiamo, qui, buona domenica a te in famiglia, grazie delle chiacchieratina. Ci sentiamo eventualmente tramite il telefono. Ok, ciao a tutti, ciao Mario, buon pranzo a tutti e due, chiudo, sino mi comunino a me. Ciao, ci sentiamo, riprende Mario. Ok, ciao Gio Maria, di nuovo buon pranzo, salutiamo tutto il QRA e poi dopo devi andare, già ci sentiamo un altro momento. Ciao e salutiamo in casa la signora, avanti Tony. Ciao Gio Maria, buona carica allora a te a QRA e buon divertimento, ci ascoltiamo alle prossime Gio Maria, ciao ciao. Ok, ciao Guido. Così che Tony, ogni tanto qualche nuovo, sì, anche io li prendo le riviste, li vedo, li leggo, capito, là, beh, no, ma non vale la candela, non vale, hanno, va bene per i giovani che vogliono percorrere a questi giocattoli qua, io li chiamo giocattoli ormai, li chiamo, hanno, a noi ci basta questi qua. Ma infatti, basta che avanza Gio Maria, Mario, di queste quelle cose che abbiamo noi, capito? Magari ci aveva avuto magari qualche cosa in più, ma in più non c'è niente, quindi che non mi interessa, va. L'ho scaricato tanto per vederlo, perché bello è bello, è bello come quello che ho io, no? Senza problemi, capito? Quindi che infatti l'ho mandato per via MMS a Gio Maria a guardarselo. Vedo che se lo guarda stasera, se lo guarda, e no, e niente. No, c'è quello che tu sai, mi sta andando molto bene, molto, molto capo e tranquillo. Ma tu sai bene Mario, io le cose le ho fatte bene, poi chi l'aveva acquistato le ha fatte ancora forse meglio di me. Io quello che ho non c'ho neanche un grafo. Di nuovo, c'era la bellezza di quasi 5 anni e sembra scendere la casa, di nuovo. Sì, ma io c'ho apparecchi vecchi, tu lo sai quanto tempo siamo noi, hanno modulando, ma mai ho venduto nulla, mai me l'ho tenuti, ma cari, me li tengo cari, se un domani non ci sono saranno i miei figli che ne approfittano e via dicendo, ma di vendere non vendo nulla. Avevo il presidente, l'ho dato, perché ce l'avevo sempre, ogni volta che veniva a casa diceva sempre dammelo, e glielo date. Poi, come tutte queste, c'ho la KF, c'ho un VHF, c'ho un altro VHF, Mario, che prende tutto. Tutto di tutto. No, io di quelle lì, io ci sono dato baracchini e e basta, è tutto fatto. Tony, anche a me è venuta gente, è venuto mio figlio, è venuto con mio nipote. Mi ha fatto molto piacere di averti sentito. Ah no, mi saluti in QRA, buona carica e cerchiamo di sentirci più frequenti. Ciao Tony. Ciao, Ciao Mario, buona carica anche a te al Correa. Alle prossime, ciao ciao. C'è qualcuno qua? C'è qualcuno qua? Queste due lo so. che sono di Gio Maria e di Mario. E dicevo, le due dove c'eri, la pasticceria e l'officina a fianco, lì all'angolo c'è un palazzo che dà in discesa e ci sono due antenne. Ma c'è il fotografo lì? K di positivo, ci sono due tele antenne. Eccolo lì, allora siamo al cuore. Infatti mi sembrava strana, una era appena più piccola dell'altra, quindi ho pensato anch'io che fosse qualche radioamatore. Sì, aggiungere, radioamatore, sì, sì. E K. Sì, queste qua le conosco bene. Anche l'altro giorno ci stavo parlando con Coso, con Mario, ed ero qui a Sassari 2 da mia suocera e gli stavo arrivando a Coso, a Bomboletta. Cavola cabra. Diciamo a vedere se c'è qualcuno che mi paga l'aperitivo, dove faccio servizio ambulanza, mi fermo e me lo faccio pagare, se no come sto andando? Ma l'aperitivo a livello di mettermi. Io adesso vado a prendere mia moglie, dovrebbe essere pronta, e dopodiché ci andiamo a prendere suocera. Comunque per quell'ora già penso di liberarmi, dai, perché poi ci sono anche le partite e io a casa di mia suocera tutto donne, si parla solo esclusivamente discorsi di donna. Mi sa che non venisci uno, ci sentiamo Giuseppe, dai, stammi bene. K al 100 ricambiato Gianni, ci sentiamo a frappè, dai, ciao già. Anzi non mi fermo, dai, fino a casa ti faccio compagnia, perché non c'è nessuno, è chiuso il cancello, probabilmente sono usciti in ambulanza, perché no, con le droghe sono usciti, manca il fuoristrada. Gava gava, K di positivo. Quindi adesso me la continuo fino a casa. Ehi, siamo già a zona Cesarini, mezzogiorno e 20, adesso altre 4 battiti di ciglia ed è subito la 1 e pronti per pappare. E vabbè, la domenica anche più tardi noi mangiamo la domenica. Perché tutte le pulizie straordinarie si fanno domenica. K, e la domenica conviene scappare subito di casa, perché mamma mia, va, meglio non toccare quel tasto lì. Dai, insomma, me lo tolgo e me lo butto a casa allora, al che ne vado a chilo, quando lo voglio pulire, già viaggio. K di positivo, buon doppio rullo. Sì, perché la macchina è tutta smontata, non c'è più cassetto, mi fa male anche a vederla così. Poi di lunedì se non me l'ha fatto, vado, me lo compro nuovo, dico interesse o più. Cappa, però fatelo piazzare da un'altra parte già, quell'amplificatore, ogni volta ne devi smontare mezza macchina. E a me, era per non metterlo in vista. E io ce l'ho nel bagagliaio, già non si vede. Tutta quanta, tutti il cablaggio si è passato lì, è un casino rifare tutto, non volevo pensarci da prima, che a parte che quello lì è quello che amplifica solo il sub e basta, non è che amplifica altro, quindi se lo metti a fianco al sub andava anche bene. E infatti, perché metterlo in posti nascosti, ma vedi, mai succeda niente, poi ci vuole il doppio del lavoro e il doppio dei soldi. Quello sì. Però è tutta scomparsa, capito? Tutta scomparsa, non si vede niente, più bello. Quello sì, sono perfettamente d'accordo, però speriamo che duri altri 30 anni quello lì, Gianni, quando te lo sistema. Mi auguro, perché a me piace la musica ascoltata in una certa maniera, se no non mi piace manco ascoltarla. Quello è poco ma sicuro. Ok, già, io sono arrivato, adesso salgo e recupero un po' di gente, dai. Puro Deo. Ok, ciao già, di nuovo buon pranzo e ci sentiamo stasera. Ci sentiamo, ciao Giuseppe. Ciao Gianni, ciao. Roma. Ulla. Ruscia. Poi, grazie. Ciao, dimmi. Come va la radio? Dai. 1, 2, 3, tomba. Bella, pulita, chiara, chiara. Capo, un attimino, grazie. Ehi. Ola, ola, ola. Adesso, guarda, 1, 2, 3. Ehi, ya, bene, pulita, pulita, chiara, chiara. Prova di nuovo, che guardo bene il discorso. Cappa, guarda. 1, 2, 3. Cappa, 9:15, pulita, pulita. Come radio è bellissima. E qual è il segnale? Il segnale è come sta arrivando? Guarda, 1, 2, 3. 9:15 qua, picchi positivi. E ora guardo, 1, 2, 3. Vai, che guardo. Cosa? Controllo che mi ha appoggiato gli occhiali, metti, pare, fai. Guarda, così, 1, 2, 3. 9:15. E così, qua. 1, 2, 3. Quasi 9:20, picchi positivi. Poi già va bene allora. Sì, anche come radio, sta uscendo bene, pulita pulita. A poi sono profumato. Io mangiare. E io chiudo, Stavano andando un po' più avanti, guarda, guarda. però lo sai come sono, te lo dico chiaramente che è stato, te lo dico, perché in realtà c'è. Vabbè. Ah, il casino te lo dorro. Cappa, ci metto quello che c'è. Ah, ciao ciao. Ma bisogna capire perché. Cappa, quale stazione adesso quanto salgo, eh? Aspetta che sta. Le stazioni le salgo, la 1 e 1. La 1 e 1, ho attaccato. Quale attaccato? Cazzo, non senti più fermo. Thank you. se non potevo più fare piazzi. Sì, infatti. Però oggi era anche una giornata di nuovo schifosa, buiosa, da schifo, la nostra siamo, sai, accumulato tutto il cuore e tanto, adesso è tutto fatto. Sono pure da porco, la casa mi è uscito un pochino anche per prendere una boccata d'aria, ma mi pare che... Comunque, diciamo che è un nuovo orologio, però ci sta bene fuori, non ce n'è freddo. Vabbè, ma è una cosa... Se c'è uno spicchio di sole è meglio, ormai lo trovo di un po', invece mi sigo la giornata buiosa, fa schifo e basta. Io me ne vado a mangiare, va. Ma io sto ancora attendendo, oggi siamo in giovedì, no, già siamo in orario, vai. E noi oggi presto, mica hai appena mangiato, finito di mandare a pappa, ci andiamo in giro. No, noi mangiamo per mezzo le due, più o meno, va. Ok, allora, buon pranzo, quando lo fai, per qua, ci sentiamo dopo, se coincide, se la giurata ti accendo, va. Se no, alle prossime, dai, buon pranzo di nuovo e ci sentiamo, ciao ciao. Capo è positivo, dai, buon pranzo, buon tutto, ce la riascoltiamo alle prossime, cambia, Gianni, a me. Là, sono col mio. Ah, hai stabilito tutto? Capo, mi metto a posto i fili e siamo a posto. Capo, fai. Funziona con 747, non è bus shipping. Come non funziona? Non funziona, non accende. Qua non abbiamo attaccato il filmare, però lui non c'hai. Già controllato, il figlio ci abbia fatti bene. Ok, dai, io vado... comunque già va tutto bene. Comunque ha appurato che il mio dà molto di più come va. Meda, meda. In confronto al tuo, se dice, non è da di più. Quanto ti ha dato? A me oltre in passa di brutto i 180. Passa pure di brutto i 180, ma un bel. Cazzo, non si riesce a risolvere il problema. Insomma, il fatto è che bisognerebbe capire la radice di questo problema, perché non è possibile, si funziona da una parte e funziona dall'altra. Vabbè. Ma io già faccio un'altra cosa. L'altra prova che posso fare è provarla con un'altra pari. Ma sì, infatti sono bassi, devo andare con questa, l'ho già provato con quasi tutti, poi ho portato anche al limite dei vati che potrebbe sopportare l'ingresso, cioè non oltrepassato. C'è una cosa che non riesco a capire, è questa qua, non la riesco a capire. E quella dell'alimentatore, la capisci, non fa funzionare il portatile, l'ho messo qua e funziona altrimenti. Io metto il portatile e si accende. Il portatile lo porto qui, lo provo con un altro alimentatore e accende. Cazzo, ma cosa vai? Cacca di demone per prendere magia? Cioè, è una cosa molto strana, io... non so, le porto, vedo, lo riproviamo e te lo faccio sentire con tutti gli apparati, Raga, ma mi dispiace perché... Anzi, va fuori lo scala, Il 100 li supera di gran lunga perché quando messo la scala 100 va oltre... Poi ho provato a metterla a un chilo, varo. Dai, ti sto dicendo che se tu gli abbassi le stazioni te ne dà molto di più, te lo posso provare quando vuoi. Stazionarie 1,4 normali, carattere da 1,2, non ne aveva stazionarie. Vabbè, ma io ce la passo proprio un bel. E se ha stazionarie non ce ne sono, dico che pompa la grande. Però cazzo, questa della cosa non riesco a capire. Cioè non è possibile, cazzo, perché c'è un qualche cavillo che non e almeno che ci sia qualche cosa nel matchbox, perché non mi sta più, non mi regola più bene le stazionali. Ho provato ma non tara più il coso del matchbox. Tu stasera con la calma, una da 48 normale non ce l'hai? Certo che sì. Ma io l'ho provato lo stesso, anche se era avuto un ritmo di voce, mi sento addirittura in cuffia, mi sentivo sul portatile, tranquillo come una Pasqua. E stai dicendo, guarda, ce l'ho, lo riporto di qua, te lo faccio sentire come vuoi tu, non... Ma da qua, sul portatile, lo sai che dovrebbe saturare, che non saturano neanche sul portatile. Cioè, cazzo, è una cosa veramente che non riesco a capire. Prima saturava con tutto, era veramente così, ma poi no. Boh, che te ne vuoi, ho avuto una grande delusione. Vabbè, comunque questo qui va benissimo. Lo so che va bene, però bisogna capire anche la radice, non bisogna arrendersi perché della cosa deve funzionare, ecco. Beh, giusto, boh, mi stanno chiamando, ti saluto, poi stasera faccio le prove, ecco, portatile, vediamo un pochettino. Ehi, a capo, a capo.